YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. E rieccoci insieme con RadioTube, chiocciola di Bellasio, chiocciola Marta Cagnola, hashtag RadioTube per chi ci vuole scovare su Twitter, così ci scova questa settimana, anche la prossima e anche quando poi andiamo in vacanza. Sì, tutto due hai detto, quindi io non devo dire più ancora. Niente, bellissimo, velocissima. Hai sentito che ho intervistato il maestro De Gregori? Vabbè, che dire. Ma l'ho mandato in onda apposta per te, sai perché? Lo so, perché viene a suonare a casa tua. Ma lo so, viene lì, ma tu guarda che Monforte, tu lo sottovaluti lì nelle Langhe, no? Un posto di 1000 persone. C'è un auditorium stupendo. Ma guarda che lì suonano tutti i più grandi. È tutto organizzato da volontariato. C'è un signore che fa tutt'altro nella vita, che si chiama Renato Moscone. Tutt'altro, immaginati, medico, dentista, tutt'altro. E fa il da 39 anni. Mi secca un po' perché è di un anno più giovane di me. Ah. Lì vanno tutti. Quest'anno, per esempio, De Gregori l'hai già detto. De Gregori, sì. Kings of Convenience fanno solo due date. Come che pare che siano famosissimi. Tu li conosci? Mi piace perché l'hai detto con l'aria meno convinta, no, però, del mondo, perché ti hanno detto che sono famosi. No, ma tu no, li sono famosissimi. Fanno due date estive e una è a Monforte, capisci? Quindi stiamo parlando di cose serissime. Cioè, Piemonte capitale proprio. Caput Mundi, oltre che patrimonio dell'UNESCO, poi ma, si mangia, si beve. Io vado il 2 di agosto perché c'è Rafael Gualazzi. Quante robe che succedono in Piemonte, non lo so come mai. Dai, questa settimana parliamo di cose un po' che hanno fatto discutere la rete più delle Langhe. No. Sembra impossibile, ma c'è anche quella. Sfotti. Lo so. Quando parliamo di Vimercate, sempre parla di Vimercate, capitale del mondo. Vimercate succedono tante cose. Di solito di cronaca nera, ma comunque. Ma non è vero. Vabbè, andiamo avanti. Allora, questa settimana la cosa più vista, più parodiata, più tutto, ha riguardato la persona di cui si parla di più nell'ultimo periodo. Allora, io tifo sempre per lei, anche se per me è sempre un po' troppo morbida. Come ti spieghi che Angela Merkel sia così molle, no? Troppo buona, è sempre lì a dire agli europei, ma sì che ce la fate, dal sei politico. Senti, più o meno a tutti. Noi donne un pochino rigide è solo perché abbiamo delle forti personalità. Sì, no, che lei abbia una forte personalità, non c'è dubbio che tu stia a ruota pure. Però, insomma, però ogni tanto anche essere dolce. Allora, spieghiamo cosa è successo se qualcuno non avesse visto quello che tutti in tutte le parodie del mondo. Allora, incontro di Angela Merkel con un gruppo di alunni e alunne di una scuola a Rostock. Sì. Prende la parola una ragazzina molto molto carina, dolcissima, palestinese, scappata con la famiglia 4 anni fa dal Libano e che da allora vive in questa città tedesca. E questa ragazza, che si chiama Reim, racconta a Angela Merkel purtroppo di avere paura di essere rimandata nel suo paese di origine. Sì. Spiega di voler restare in Germania, ma ascoltiamo. Ovviamente vi racconto un po' perché non tutti parlano il tedesco. Io per prima non è che sono proprio disinvoltissima in tedesco, ma sentiamo cosa è successo a Rostock. Ich habe ja auch Ziele, so wie jeder andere, klar, genau, klar. Also ich möchte studieren, wirklich wie, es ist wirklich ein Wunsch und ein Ziel, das ich gerne schaffen möchte. Beh, insomma, dice, non so come sarà il mio futuro, non so se potrò restare, anche io dei progetti vorrei studiare, dice questa ragazza che, come potete intuire, anche se non parlate il tedesco, lei il tedesco lo parla perfettamente, ormai è una ragazzina perfettamente integrata in Germania, e poi dice, è una sensazione fastidiosa vedere come gli altri possano vivere la loro vita, io no. Senti qua come, cioè, sì, la Merkel come stesse rispondendo in un talk show, esatto, serissimo, ecco, se non in Parlamento. Hai colto il punto, lei non capisce che sta parlando a una ragazzina e parla come se parlasse al Bundestag. Esatto, e dice, lo capisco, sei estremamente simpatica, ma nei campi profughi palestinesi in Libano ci sono migliaia e migliaia di persone e non siamo in grado di far venire tutti. Da sind wir jetzt in diesem Zwiespalt und die einzige Antwort, die wir sagen, ist bloß nicht so lange, dass es so lange dauert, bis die Sachen entschieden sind. Sì. Aber es werden manche auch wieder zurückgehen müssen. Wir haben so viele Familien, wo die Kinder dann in die Schule gehen und das müssen wir verändern. Kann man da einen Zeitraum abstecken, wild entschlossen bedeutet? Na, ich denke, dass wir innerhalb eines Jahres jetzt all die Fälle. E poi silenzio. Oh, kommt. Du hast das doch prima gemacht. Ich glaube nicht, Frau Bundeskanzlerin, dass es da ums Prima machen geht, sondern la bambina, dass es eine sehr belastende Situation si commuove, si commuove, c'è una signora vicina che l'abbraccia. L'abbraccia e la stessa Merkel che a un certo si punto si accorge che la situazione sì, sta un Merkel po' prendendo ha capito, una piega insomma, complicata. È spiazzata, si è avvicinata, l'ha un po' goffamente abbracciata e le dice: la politica a volte è dura, so che è un momento difficile, risponde al moderatore dell'evento, quello che posso promettere è che in futuro le procedure per valutare le richieste d'asilo siano più celeri. Ecco, diciamo che la Merkel, se qualcosa non doveva accadere in questo periodo, era esattamente questa cosa qui, visto esatto, che già non gode esatto di buona stampa nel resto d'Europa. Sì, devo dire, soprattutto sui social italiani io sono abbastanza arrabbiata, no, no, perché beh, certo, si sta scatenando un'antipatia che dire ingiustificata è poco nei confronti della comunque Germania. Comunque non ne aveva bisogno. Fossi stato il suo consigliere di sulla comunicazione, sì, diciamo, ecco, le avrei suggerito di affrontare sì, forse, in maniera ecco, diversa. Diciamo che con dei bambini non doveva parlare come se fosse davanti. E infatti... Infatti cosa è successo? Le parodie subito su Twitter, io mi sono divertita molto ieri mattina a guardare subito intanto le reazioni di quelli che dicevano la bambina ha pianto perché le ha spiegato il finale di Lost, sì, perché le ha detto il finale, le ha spoilerato, sì, così, e poi a un certo punto arrivano i The Jackal che fanno una parodia, praticamente... Ich habe auch Ziele, so wie... E loro fanno i sottotitoli. Salve presidente, sono felice che sia qui. Ieri sera ho visto un cartone che mi è piaciuto molto e mi chiedevo: ma la mamma di Bambi mica muore veramente? E sai come risponde la Merkel? Me lo immagino. Siamo persone adulte, quindi ti tratterò come tale. La mamma di Bambi viene uccisa, sparata da un cacciatore, gli ha perforato il cranio, non tornerà mai, mai più. C'era sangue ovunque. Come puoi pensare che non sia morta con tutto quel sangue? Lei è morta. E poi la cosa è che quando lei si ferma e capisce che la bambina piange, secondo i The Jackal, lei dice: quanto a te, devi capire una cosa, tutti dobbiamo morire, anche i tuoi genitori moriranno, ok? È tremendo. Terribile, sono stati terribile. Bravissimi. Sì, sono bravi. Ti riesce bene però a doppiare la Merkel? Brava. La Merkel, perché siamo tutte sì, due antipatiche. Un po' così, un toste. Un po' abrasive, ma è perché abbiamo tutto sommato sotto un cuore d'oro, ma non ci viene bene mostrarlo. Sì. Sai chi non sentiamo da un po'? Chi? Mary Tinks, l'inglese, Spinuccio, che si è occupato di Europa questa settimana. Ma certo. Dettando le condizioni dell'accordo della riforma greca. Ah sì, quelle da fare in 448. Sì, con una telefonata. Come fa di solito? Vuoi sentire la telefonata? Sai da dove era? Guardate, andate a trovarlo su YouTube, così vedete dove era Pinuccio. Pinuccio, eccolo qua, la sua telefonata. Alexis carissimo, Pinuccio sono. Senti, noi abbiamo appena finito la riunione qua con la Merkel, Hollande. No, Renzi non gira, quello non conta niente, che lo chiamiamo a fare, fa sul casino, vabbè, e poi porto pure un poco male. Vabbè, senti Alex, noi abbiamo fatto qua l'elenco delle richieste, mo te l'hai detto, tu prendi carta e penna e vedi se... e le devi fare per forza, se no quelli mi sa che ti bombardano, va bene? Beh, allora scrivi. Allora, nel menù greco sostituire la feta con i wurstel, scrivi. Fare come ministro dell'economia 30 lance, che quelle pure sos di Varoufakis là, qui nessuno se ne accorge. Si dice rimesso di voi, lui invece è quello. Beh, però devo dire che... Che alcune... No, sai no, che scherzo. Adesso che lo sento con sì, attenzione... La somiglianza di Varoufakis è vera. Sì, quella ci ho pensato anch'io. Non ci avevo mai pensato, perché sì, tutti ne tiravano fuori altre, sì, ma questa sì, forse sì, è quella più vera. Quindi stiamo praticamente confessando di essere dei fan. No, vabbè, però... che ci è capitato. Poi fa anche lo scrittore, sì, quindi lo, vero, sappiamo, lo conosciamo come poi scrittore. Poi ogni tanto compare nelle interviste. Certo. Non addentriamoci no, esatto, in argomenti spinosi. Scabrosissimi. Anzi, quindi... facciamo una cosa. Ci prendiamo una piccolissima pausa. Sì, assolutamente. Il traffico, non del villaggio, non ma pur villaggio, sempre traffico. Pur sempre, dai, ci troviamo tra pochissimo perché abbiamo degli ospiti, questa puntata degli ospiti pazzeschi. RadioTube. Rieccoci. rieccoci insieme per questa puntata di RadioTube, che Daniele è la penultima della stagione. Come farai senza di me? Non sotto lo so, l'ombrellone? Guarda, non ho idea, non ho idea. Ti registro, correre. Se vuoi un po' di audio così, non so, parlo. Dai, c'è chi lo fa, così. Va molto, molto sì, bene. Sì. Sì. Uno, io ti registro delle cose, tu stai lì sotto l'ombrellone col Martini e senti. Mi piace molto, però ti riporto all'ordine perché vorrei parlare di politica. Di cose molto serie. Di politica. Abbiamo parlato un po' di politica internazionale in un modo un po' particolare. Sì. Adesso però parliamo di politica, anche un po' di politica italiana, perché indirettamente, cioè. Sì, devo dirti che si parte dalla Gran Bretagna. Si parte dalla conferenza ONU intanto, sai perché? Sì, perché d'estate i politici italiani si fanno sentire un po' meno. Ah. Però inevitabilmente in questi giorni se ne parlava, perché con l'accordo, la Grecia, le trattative. Sì. Matteo Renzi è tornato agli onori della cronaca appunto per la sua presenza. Per il suo anche inglese fluente. Ancora una volta? Sempre meglio, eh? Ancora, però no, è vero, sta migliorando. Sì, no, sicuramente. È arrivato alla conferenza ONU con un pochettino di ritardo, sai? E sarà stato un po' anche stanco, dai. Però giustificato. L'ha spiegato una missione. L'ha spiegato lui. Sentiamo come ha spiegato il suo ritardo Matteo Renzi. Mr. Chairman, the reason why I came here, and I'm sorry for the delay, but we spent a very interesting night in Brussels to save euro and to try to involve Greek economy. Scusate il ritardo, ma ho passato la notte a salvare l'Europa, signor Presidente. Il motivo per cui sono venuto qui, mi spiace per il ritardo, ha detto, ma abbiamo passato una notte molto interessante a Bruxelles a salvare l'euro e a tentare di coinvolgere l'economia greca in una nuova strategia. Quindi scusi il ritardo. Sì, non ha detto proprio che solo lui, No, cioè voleva vabbè, dire, mi piace. Ma sì, vabbè, certo. Mi piace introdurla un po' così. Ma quindi è veramente colpa del Globish. Ma voleva, sì, voleva, ci ha provato. Se mica tutti parlano bene l'inglese. Ammesso che sia stato salvato definitivamente. Vediamo. Però, vedremo. Allora, politica italiana continua a farsi un po' sentire anche se è estate. Talk show che tornano, si parla di tanti temi, si parla anche di astensionismo però. Sì, no, perché si riflette, è una questione dell'ultimo periodo, no? Perché si vota sempre di meno quando si vota? Per esempio anche al referendum greco, tutto sommato. Perché? Ma uno prova a cercare delle esatto, risposte. Ma tu una risposta ce l'hai o no, ce l'ha qualcuno? Però grazie al nostro mitico Christian Goldoni. Ah certo, perché Christian Goldoni che ci fa da angelo custode in redazione. Sì, e nel mio caso quasi da proprio, cioè da, come si può dire, di sostegno, qualcosa di sostegno. Qualcosa di sostegno, sì. Lui ti ha segnalato questo studio fatto da professori italiani però che insegnano all'estero. Uno in particolare. Ma lo devo presentare io? Sono diventato conduttore? Io intanto presento il professore, che è il professor Tommaso Valletti, docente all'Imperial College di Londra, che è con noi al telefono. Buonasera professore. Buonasera a voi. Allora, dunque, Daniele, lo studio, adesso io semplifico moltissimo, il professore giustamente mi correggerà, però noi abbiamo sentito molto spesso che è colpa di internet, no? Questa cosa qui, perché siamo diventati più cattivi, perché leggiamo di meno, perché la memoria è più fiacca, perché apprendiamo di meno. Molto spesso si dice colpa di internet. Non avevamo ancora sentito, lo dico in modo molto provocatorio, che persino l'astensionismo è colpa di internet. Professore, ovviamente l'ho detta male, lei ce lo spieghi meglio, ma la tesi di fondo è questa? L'ha detta molto bene, sì. Questo è un lavoro che ho fatto insieme ad Alessandro Gavazza della London School of Economics e Mattia Nardotto di Colonia. E andiamo a vedere con dei dati dall'Inghilterra, seguiamo come si diffonde la banda larga a livello proprio geografico molto locale in Inghilterra nel corso degli anni, e vediamo come in risposta alla diffusione della banda larga, andiamo a vedere che cosa ci fa la gente con l'internet. Potrebbero in teoria cercare informazione, ma potrebbero anche utilizzarlo come, non so, per i social networks, per Netflix, per scaricarsi video, guardare YouTube, e vediamo che alla fine in alcuni gruppi le persone vanno a votare di meno alla fine. Come il nesso causale è proprio che l'internet provoca una diminuzione nella partecipazione al voto. quindi un aumento dell'astensionismo. Lo studio è stato effettuato sui distretti elettorali inglesi, ho letto, però è un po' applicabile anche al resto del mondo come lo conosciamo noi? Sì, questi si chiamano local ward in Inghilterra, sono delle circoscrizioni elettorali, ce ne sono 7.000 che noi seguiamo negli anni. Se tenete conto che in Italia ci sono circa 8.000 comuni, e più o meno un campione come se avessimo guardato le elezioni comunali in Italia, guardando fra comuni diversi che hanno accesso a diversa qualità della banda larga. Per non parlare di colpa, io provo a prenderlo da un punto di vista diverso, cioè provo a sottoporle questa tesi. Può essere che la rete induca nei cittadini la sensazione di aver già fatto tanta politica e quindi tutto sommato ho già espresso la mia, ho già partecipato sui social network, sulle cose, e quindi proprio per queste cose tutto sommato il voto diventa meno importante? In parte sì, in parte no, nel senso, innanzitutto gli effetti sono molto differenziati ed eterogenei. Noi vediamo che più la gente ha comunque un grado di educazione più elevato, le persone più anziane anche continuano comunque a leggere i giornali, si informano, forse è una congettura, sanno anche come utilizzare l'internet come fonte di informazione, mentre più sono i giovani, questa è un po' la sorpresa se volete, più le persone sono giovani, meno sono ricche e meno educate, più queste sono quelle che non sono interessate all'informazione e si perdono per quello che riguarda le tornate elettorali, che le persone poi dicono abbiamo già contribuito. Noi quello che troviamo in un secondo passo di questo studio è che anche politici eletti comunque rispondono alla variazione di quello che noi in letteratura si chiama l'elettore mediano. Visto che l'elettore mediano diventa relativamente più ricco, più vecchio, più educato, le politiche delle circoscrizioni in Inghilterra diventano sempre più a favore di questi gruppi. Quindi uno potrebbe dire ho già dato, non mi presento al seggio elettorale, però poi le politiche che i politici eletti vanno ad implementare non sono più a favore di queste persone che si perdono. Ecco, questo è molto interessante, perché voi nello studio valutate quelli che sono in un certo senso gli effetti sociali dell'astensionismo indotto dalla diffusione, anche indotto dalla diffusione della rete. Cioè voi dite che alla fine, in estrema sintesi, i politici sono indotti a fare politiche per i cittadini che sanno essere più disposti ad andare a votare, quindi sì, per quelli di uno strato sociale più elevato, giusto? Sì, proprio questo troviamo, quindi è un po', noi ovviamente prima siamo interessati a documentare questo fenomeno che non è ovvio, in secondo luogo le conseguenze del nostro studio sono diciamo di natura duplice. Da un lato abbiamo tutta una grande propaganda ed enfasi sulla riduzione del digital divide, se ne parla in Italia, portiamo la banda larga dappertutto, che può andare bene in via di principio, però dobbiamo anche chiederci che cosa ci fa la gente una volta che ha la banda larga, e noi troviamo che alla riduzione di questo divario digitale si è creato un divario di natura diversa, che alcune persone comunque sono disincentivate dal presentarsi. Ovviamente scherzando si potrebbe dire che questo giustificherebbe il fatto che l'Italia ha dei dati di affluenza alle urne maggiore rispetto agli altri paesi, perché è molto indietro sulla banda larga. Paradossalmente la banda ecco, larga quindi serve anche alle imprese, serve ad altre cose, quindi andrei cauto. È rischioso. L'altro aspetto sì, sul quale forse effettuare una riflessione è che abbiamo fatto un sacco di politiche di devolution, di federalismo, di autonomie locali. Le dati che vediamo è che pochissime persone vanno a votare, sembra che ci sia un grosso disinteresse poi per quelle che sono delle dimensioni prettamente locali, quindi non è chiaro che devolvere all'autorità locale sia la cosa giusta, anche perché appunto alla fine sono poche persone che si presentano e decidono loro poi le politiche per tutti. Tutto questo però quando ci sono e dove ci sono partiti politici che grazie alla rete, partendo da zero, penso al Movimento 5 Stelle in Italia, certo, hanno raggiunto invece quantità di voti e numero e percentuali di elettori molto elevate. Certo, l'Italia è anomala per quello che riguarda soprattutto l'inizio del Movimento 5 Stelle, perché non era possibile vederli se non su rete. Adesso che 5 Stelle comunque è un partito un po' più istituzionale, che è presente quindi anche sugli altri media, è probabile che l'effetto di traino che ha avuto Internet per 5 Stelle venga a diminuire. Professor Valletti, io ho un'ultima domanda da farle. Ma lei da Londra come la vede in questo momento l'Italia? Non la vedo perché sono qua, so che è molto calda, vorrei essere lì in quest'estate. Per quello che riguarda le politiche digitali, visto che mi occupo di internet, la vedo molto confusa, ci sono tanti annunci e poche cose fatte in pratica. Ecco, e devo dire che secondo me la vede bene anche da Londra, anche da lontano la vede bene. Ma lei è andato all'estero, cioè lei è un cervello in fuga? In fuga no, qui ho trovato casa, quindi mi sono fermato. Sono venuto qua a fare un master, un PhD e poi ho trovato un lavoro. Così funziona, lo chiamiamo in tanti modi, ma così funziona. Professor Valletti, grazie per essere stato con noi. Professor Tommaso Valletti, docente all'Imperial College di Londra, veramente grazie e buona serata, presto. Buona Londra. Anche a voi. Buona estate, arrivederci. Che bravi questi professori molto italiani all'estero. Molto interessante perché è sempre bello scoprire dei fenomeni su cui si pensa di sapere tutto, invece delle sfumature e delle riflessioni e delle analisi come dire diverse, il pensiero laterale anche sulla rete. Mi piace molto. Abbiamo citato i talk show, sì, che riprendono, talk show che vanno in onda anche d'estate, quindi tra poco avremo un ospite e sì, metto l'apostrofo tra un e un ospite perché è una donna e sono molto com'è contenta la politica di averla con d'estate noi. Secondo te? Adesso Marta, lo chiediamo anche vediamo alla nostra com'è, tra poco dopo una breve pausa. Diceva Einstein, è più facile spezzare un atomo che un pregiudizio. Indovina chi viene a cena, si occupa di identità e preconcetti, in cucina come negli incontri che facciamo. Ogni settimana ospitiamo un italiano con radici altrove che racconterà la sua storia anche attraverso un piatto. Fra couscous e risotto intorno ai fornelli si parlerà di contaminazioni e false credenze, verso il cibo e non solo. You've got to... Sono Valentina Furlanetto e vi aspetto ogni sabato alle 23 con Indovina chi viene a cena e quest'estate anche la domenica alle 13:30. Radio Tube. Devo dire che è una puntata questa di Radio Tube, caro Daniele, in cui abbiamo parlato di politica, abbiamo parlato altro che clima balneare, noi siamo... Ma sì, perché siccome la penultima, nell'ultima faremo tutti dei frizzi, nell'ultima delirio, sì, delle dai, robe da spiaggia, vengo in veniamo bikini qua in costume, esatto, quindi la stessa cosa, il bikini forse non è il caso, però... Anche bikini, che carino! Mentre per la penultima restiamo nel mondo della politica, anche perché la politica non va più in vacanza da molti anni, guarda che... Non capisco se è una minaccia... Le mani dici no, no, se la politica non va più in vacanza troppo. Un po' paura. No, non va più in vacanza perché non vanno più in vacanza certe trasmissioni, cambiano un pochino ma poi neanche poi tanto. E no, la politica continua perché stiamo diventando un po' paese anglosassone dove un po' come il cinema che esce anche d'estate. Ah sì, il cinema esce d'estate? Sta andando un po' meglio rispetto agli anni scorsi. Ma dai, non ci avevo fatto caso questa cosa qua. Un pochino si allunga la stagione. Tutto questo per dire che le trasmissioni possono cambiare qualche piccolo ingrediente però restano importanti, i politici vogliono andare nei talk show, vogliono fare i dibattiti anche la mattina, il talk show si è spostato la sera alla mattina, quindi? E quindi l'estate è anche terra l'estate di addosso, sperimentazione, sì, estate addosso. Beh, è terra di sperimentazione, di nuove conduzioni magari un vabbè, po' al di là degli schemi. Lei è già al secondo sì, anno, infatti. Ma infatti io sono già una fan scatenata da tempo. Sì, infatti da tempo. Lo dicevamo. La presentiamo? Tu, sì, la presentiamo. Sì, la allora, tutte le mattine, sì, presto, è l'ora sì, in cui mi alzo io. Beh, non prestissimo, hai ragione, non prestissimo, 8 del mattino, quindi non è che proprio sono, non è che mi sveglio proprio all'alba. C'è gente che si sveglia molto prima. No, infatti, 8 del mattino, cosa si fa la mattina? Ci si alza, si mette sul caffè, si accende la TV su Rai 3 e si guarda Agorà. Buongiorno, bentornati ad Agorà. E quindi si guarda Serena. E si guarda Serena Bortone. Buonasera Serena. Ma che carini, ma siete favolosi. Allora, ma che bello sentirvi. Serena, allora tu te li immagini i tuoi telespettatori lì con la babuccia, il caffettino? Ma perché la babuccia? Ah vabbè, ma perché scusa, la gente alla mattina è così? Ma sì, perché sei rilassato, devi cominciare presto la giornata. No, e però la domanda è ora, molto ora, più intelligente di quanto non sembri. Perché sei tu che pensi che le mie domande siano sceme. No, anzi. No, davvero, te li immagini i tuoi i tuoi telespettatori lì la mattina, che non è un tempo, non era un orario scontato per il talk show di un certo tipo. Beh, guarda, a parte che immaginare per i telespettatori è sempre utile perché bisogna sempre cercare di capire quello che ti chiedono, altrimenti poi non gli piaci ovviamente. Come me li immagino? Me li immagino già pronti, reattivi, già con una grande voglia di sapere quello che succede in Italia, spesso anche nel mondo, perché noi ovviamente ci siamo occupati nelle prime tre settimane dell'estiva del caso Grecia, come era ovvio che fosse. E quindi insomma già pronti a indignarsi, a sorridere, a capire come vanno le cose, a condividere impressioni con chi sta in studio, magari invece a contestarli, perché insomma diciamo il telespettatore di Rete è anche un telespettatore reattivo e interessato a quello che avviene intorno a lui, insomma, curioso. Com'è affrontare un talk show in conduzione estiva? Perché tu prendi il testimone di una conduzione invernale, non che debba essere appunto Gerardo balneare Greco. Perché Gerardo Greco è stato anche lui nostro ospite, sì. Non che sia balneare perché appunto i temi non lo sono, ma che insomma dare un taglio diverso, dare la tua impronta, magari gli ospiti sono diversi, non lo so, cosa cambia? Guarda, gli ospiti diciamo sono gli stessi, nel senso che ci sono alcuni ospiti che sono necessari, che sono poi protagonisti della vita politica, per cui è evidente che il ministro oppure non so Susanna Camusso oppure non so Luigi Di Maio del 5 Stelle, per dire insomma i personaggi protagonisti della vita politica sono sempre gli stessi. E quello che poi può cambiare è magari un'attenzione più particolare, perlomeno da parte mia, più particolare ai territori, alle storie, alle curiosità. Adesso che fa molto caldo, non dico che parliamo anche di temperatura, però lo teniamo presente anche perché gli umori delle persone conta anche quello. Ci è capitato di collegarci con una stazione dell'Antartide dove i ricercatori italiani stanno a meno 70 sotto zero. E quello diciamo devo dire c'entra con la politica, c'entra con la vita in questi giorni di caldo. Perché tutto poi levato. La politica è la vita è la politica, e sotto l'ombrellone si parla anche di politica per quelli che partono, perché è anche vero questo oramai. Quindi mischiare un po' la politica, quello che un tempo si chiamava il costume, la cronaca bianca? Beh, contaminare, sì. Sai, poi quello a me piace ascoltare la testa delle persone, quindi chiunque, penso che chiunque su questa terra possa avere qualcosa di interessante da dire, no? Perché ha comunque una storia da raccontare, ognuno di noi è un romanzo, e quello basta saperlo tirare fuori o avere la curiosità di tirarlo fuori. Io ci provo per quanto posso e poi cerco appunto di contaminare, anche perché altrimenti i mondi diventano asfittici, la politica diventa asfittica, l'economia anche, soltanto andando sull'autobus, come diceva Zavattini, puoi capire dove va un paese, e quindi puoi anche avere la possibilità di poter rivolgere le domande più giuste a chi ci governa. Ma quanto un merito, posso, cioè, due piccole curiosità, un merito che va riconosciuto ad Agorà in tutte le sue forme, conduzioni d'estate e inverno, è quello di avere un po' portato degli ospiti politici più giovani, diversi, comunque non visti, no? E vai Serena. No, dico, quello è sempre diciamo una nostra vocazione, rientra appunto nella curiosità che ci contraddistingue, considera che ovviamente essendo una quotidiana abbiamo anche più possibilità di sperimentare. Sì, per cui abbiamo e poi ci diverte, perché se non siamo curiosi e non ci divertiamo noi neanche parlare con qualcuno che magari non si è visto fino a questo momento, se non ci divertiamo noi non si diverte nemmeno chi sta a casa, intendo il divertimento non con la risata, intendo il divertimento come esercizio di sapere. Sì. Ecco, l'altra curiosità invece era sul politico estivo. In Italia è sempre esistito il politico, oppure il partito, che sapeva meglio usare l'estate per fare politica. Pannella e i radicali in una certa fase, Bossi e la Lega. Secondo te quest'anno chi sarà? L'estate e l'inverno è più o meno la stessa cosa. Diciamo che cambiano le location, per cui ti ritrovi magari ad agosto che fai dei telefoni, le telefonate al politico e senti sotto lo sciampettio del mare, no? E quindi pronto e fa il vento. Dov'è? Sono quelli che compaiono al TG1 con la polo e dietro sempre quella è meraviglioso, l'aiuola. Esatto, ma quello è anche il grande politico del weekend, quello che vedi certo. con le polo con lo salmone, no? Sì, e il pullover appoggiato sulla spalla. Esatto, tu capisci che c'è qualcosa che sta cambiando, no? Che hanno appena fatto lo spaghettino a fregene, si sono appena entrati dentro casa e quindi si concedono le telecamere. No, diciamo che aumentano i collegamenti da Bari durante l'estate, sì. Sono in vacanza lì e quindi le sedi di Bari sono abbastanza affollate. Serena, quando studiavo mi spiegavano che il bello del giornalismo era che era una scatola, ci potevi mettere tante cose dentro. Bella questa sì, cosa. Bella, eh? Serena, tu hai messo dentro in questi ultimi anni nello scatolone l'essere conduttrice e l'essere inviata. Adesso non ti chiedo cosa ti piace di più, ma che cosa trovi di te nelle due dimensioni diverse? Guarda, io sono conduttrice, inviata, autrice anche, per cui diciamo che so fare tutto, ma io ho iniziato, facevo l'assistente ai programmi, per cui... Ma è vero che hai lavorato anche ad Avanzi? Certo, io ero assistente ai programmi del mitico Avanzi, ed ero una ragazzina che aveva appena iniziato a fare i contratti in Rai, e quindi no, questo per dirti che poi quando uno lavora in televisione, io penso che sia giusto anche conoscere la macchina nel suo complesso, perché se ne conosci tutti i gangli, sai anche come risolvere i problemi, e quindi questo è anche molto molto divertente. Avanzi fu una delle cose più più belle che ho fatto nella mia vita, anche perché ricordo queste schitarrate all'epoca Saxa Rubra, che non era ancora diventato la sede del giornalismo ma era appunto una sede disabitata dopo i mondiali di calcio, perché era stata la sede dei mondiali di calcio, e quindi tra una prova e l'altra si suonava la chitarra e si cantava tutti insieme con Corrado Guzzanti, eccetera, per cui era una esperienza molto bella, no? Di cosa stiamo dicendo? E poi è stata la storia della televisione quella, la veramente la storia della televisione. Saranno elezioni difficili. Bravo. Però non ci sarà il problema dell'assenteismo. Peggio, c'è il pericolo del sospensionismo. Questa gente che dice: tu che voti? Ma non lo so, ci penso, tanto poi c'è tempo, la sera avanti per la votare, poi ci penso lì, vado in cabina, arrivo in cabina, via la scheda, la penna. Sospesi, la gente bussa, oh, ha fatto, oh, occupato, hai fatto, occupato, alzato dentro la vela. Questa volta faceva trasmettere. Beh, abbiamo trovato questo Guzzanti molto attuale, ma Serena, dicevi, differenze tra essere inviata e conduttrice. Quando fai l'inviato acquisisci questa dimensione di conoscenza dell'altro, perché l'inviato ti capita di poter fare la politica ma di fare anche appunto il racconto delle storie, e l'inviato a maggior ragione deve essere molto attento ai dettagli, soprattutto in televisione, perché magari un'inquadratura di un singolo oggetto, di un gesto di una persona ti può fare il pezzo, detto giornalisticamente parlando, no? Perché magari un libro a casa di qualcuno ti rivela di più di quanto ti rivelerebbero mille parole di quel personaggio. E se tu questa curiosità, questa attenzione al dettaglio la porti anche nel talk, sarai più acuta nel coinvolgere le persone insieme, nel cucire quello che loro ti dicono, perché ha un'attitudine mentale, diventa di appunto attenzione, acribia direbbero i colti, quindi quasi di petulanza rispetto alle piccole cose che poi prussianamente fanno l'uomo. Capito, cioè mica capito? Io sono fan di Serena Bortone per caso. No, molto bello. Serena, ma ti mandano mai in vacanza? Cioè 3 mesi di conduzione, Natale, poi andrà a sciare. Riesci mai? Allora, io detesto sciare perché sono solo una sportiva, non ho mai fatto sport in vita mia, per cui per carità di Dio non mi fate fare cose stravaganti. No, in vacanza ci vado, mentre io mi piace moltissimo viaggiare, per cui sarei sempre in giro, e ci sto ovviamente meno da qualche anno a questa parte, però pazienza, insomma... troveremo altre stagioni, certo, è ovvio che le vacanzone con gli amici conviviali che adoravo nelle mie passate vite sono finite, perché poi appunto a ottobre è difficile che qualcuno ti venga dietro, però vabbè, ce ne faremo una ragione, dai. Grandissima. Trovi posto però almeno. E spendi meno, sì, trovi posto, spendi meno. Un po' di più, insomma, vabbè, dai, non cominciamo con le tristezze della vita. No, non figure. Sono queste le tristezze della vita. Grandissima Serena, grazie per essere stata con noi, Serena Bortone. Buona estate. Quindi io da lunedì mattina, come sembra, 8 del mattino, con le babbucce, il mio caffettino, le mie babbucce, va bene, dai. Ti penserò. Io senza le babbucce. Quando do il buongiorno penso alle tue babbucce. Fantastico. Okay. Grazie. Ciao, Serena, per essere stata con noi. A presto. A voi, grazie. Che brava, bravissima, che brava. Poi, simpatica, finalmente, social, donne al timone dei talk show. Beh, ma c'è finalmente, c'è la Gruber, la Sardone, alla grande, bene, bene, finalmente. Abbiamo, ma dobbiamo dare il traffico, immagino. Il traffico non del villaggio, non più del villaggio. Manca villaggio. Tanto. Vabbè, villaggio. Ma abbi pazienza, insomma, un po' di ferie, un po' di traffico, poi ci ritroviamo insieme, perché sai di cosa parliamo? No. Di Periscope. Ah, a me piace tanto, lo sai. Tra poco. YouTube. L'ultimo pezzetto del nostro RadioTube per questo sabato, che è il penultimo sabato prima della pausa di agosto. Dio, io devo dire che come sempre in agosto invado il palinsesto di Radio 24 in tutte le ore, in tutte le salse, perché ho che tante bello. Cose. Sì, allora guarda. Noi tutti lì sotto l'ombrellone a seguirti. No, ma anche io mi faccio un po' di vacanza, però sto preparando tante cose per tenere compagnia agli ascoltatori. Belle? Di che cosa? Di cinema? Sì, tanta musica quest'anno. Tanta musica, tanta musica. Caro Chiocciola di Bellasio. Perché cara Chiocciola Marta Cagnola. Anche perché gli hashtag, i social non vanno in vacanza, a meno che qualcuno non vada in vacanza dai social. Sì, e dica lo devo fare, perché sennò c'è qualcuno che vuole andare in vacanza per sempre da me. Cioè vuole la mia famiglia. La mia famiglia si arrabbierebbe. Mo' basta. Quindi Fiorello, giusto? Sì, Fiorello. Ha scritto adesso ancora qualche giorno, non ho capito tanto. Sì, poi dopo poi i basta, social per un po'. Tutti i social. Mentre la televisione proprio? No, ma lì scherza. Non lo so, guarda, io sono molto combattuta con in merito a questa cosa di Fiorello. Quale? Perché, allora... Fiorello, sai che da un po' di tempo è molto utilizza... mattiniero intanto. Sì, ma parecchio. Molto mattiniero. Cioè io trovo i suoi Periscope non quando mi sveglio, perché l'ho appena fatto coming out, ho detto che mi sveglio alle 8 del mattino, quando non dormo di notte. Sì, cioè sì. Cioè io siccome sì, non dormo vero, tantissimo vero, di notte, sono abbastanza insonne e a volte vedo che lui è su Periscope, lui si è già svegliato la mattina. Arriva prestissimo, inizia prestissimo a lavorare con perché in fondo sta diventando un po' un lavoro. Beh, certo comunque. Che è un lavoro, certo. Format. Per lui ha inventato un format e a un certo punto una notte, sì. Una mattina molto presto questa settimana lui ha fatto questo video con questa voce molto cavernosa, sì. Lo sentirete tra poco perché ve ne mostriamo un pezzettino alla radio, molto assonnato, e ha detto: io voglio continuare a esprimermi sul web perché in TV non mi sono mai divertito, è troppo stressante. Sentiamo cosa ha detto. Sentiamolo. Fiorello in vediamolo, questo Periscope molto molto molto molto mattiniero. Sapete qual è il problema della televisione? Adesso non so se riesco a spiegarmi. Quello che voi vedete in televisione è il risultato di prove, stress, ansie, conferenze stampa, discussioni, critiche, non critiche, giornali. Quindi è una cosa pesantissima. E non è fatta per me. Non ce la faccio più. Forse ho l'età, ma non mi va. Io tutte le volte che ho fatto la TV l'ho fatta, sì, è venuta anche molto bene, abbiamo avuto grande successo. Però non è stato divertente. Non mi divertivo. Era stressante. Beh, devo dire, la voce, ve l'ho detto, era cavernosa, era quello del primissimo io mattino. Io faccio fatica, è la bravura di Fiorello, Se non scherzava, quindi tu dici? Cioè, allora, karaoke non si divertiva? Se l'ha chiesto anche Aldo Grasso. Secondo perché me dice: quando faceva karaoke si divertiva col codino, stupendo, nelle sì, piazze. Sì, allora, infatti anche Aldo Grasso ha scritto: ma davvero Rosario Fiorello ha deciso di chiudere con la TV? Davvero è così deluso per l'esclusione dai palinsesti Rai da dare libero sfogo a un risentimento cattiveria. Così cupo? Davvero non vedremo più in TV uno show di Fiorello solo perché qualche malmostoso ha osato criticarlo? Secondo me questo terzo punto, dai. Però, effettivamente, allora. Tu dici in TV si è divertito. Secondo me si è divertito molto, perché lui ha citato anche il successo del più grande spettacolo dopo il weekend, che era bellissimo, e lui secondo me davvero si divertiva. Però c'è qualcosa che è cambiato in questo periodo. Sai cosa è cambiato? L'ha detto lui stesso. Quando fai così mi preoccupi. Dimmi, cos'è cambiato? Ti ho lasciato un po'. No, sì, hai creato la suspense dentro di me. Figurati nei radioascoltatori. Ma figurati. Allora, cosa è cambiato? Ci sono i social network. E quindi ci sono i cosiddetti haters, cioè quelli che scrivono le critiche, e probabilmente questa cosa lui beh, ma lo fanno anche se di quello che tu fai sui social network stessi, perché quello riesce a però lui dice che su Periscope gli haters non ci sono. Sai perché non ci sono gli haters su Periscope? Perché ci sono ancora troppe poche persone. No, senti qua perché. L'ha detto lui in questo video notturno. Che dicono gli haters di Periscope? Che dicono? Dove sono? Non ci sono. Se non sei, non lo puoi fare. Non hai argomenti, non lo puoi fare. E molti che fanno i fighi su Twitter, che scrivono le battute, i battutari da Twitter, che per scrivere una battuta ci mettono magari mezz'ora, la pensano, poi la scrivono. Su Periscope non ce la fanno. E allora, quando non ce la fanno, quando la volpe non può arrivare all'uva, dice che l'uva non è buona, E indovinate chi non c'è su Periscope? Tutti quelli che fanno i battutari su Twitter, perché hanno paura. Avete paura di misurarvi con la diretta. State nascosti, nascosti vigliaccamente dietro le tastiere dei vostri computer, a pensare, a rimuginare su cosa scrivere di molto divertente, e ci riuscite. Siete bravissimi, ma dal vivo, in diretta, non ne fate. Ecco qua, lo dai, dice su Periscope, non ci sono. C'è questa sottile ironia. No, probabilmente bisogna anche dire che fare Fiorello in televisione deve essere molto stancante, perché lui decine di cose, anche per quello che... Però non so, secondo me scherzava, e io mi auguro che inventi qualcosa che unisca Periscope, la televisione. Tu ti stai molto appassionando a Periscope. Sì, io mi sto appassionando, anche perché ci sono ormai delle classifiche. Io sono un grande fan del fatto che si possano vedere pezzi di concerto di Jovanotti grazie a Francesca Dai, Vagliani. Ce l'abbiamo un pezzettino, sai che l'ho preso? Grazie. Allora, Roberta, chiedo a Roberta Fesani, regaliamo un pezzettino di questo audio, di questo Periscope a Daniele Bellasio. Francesca Valiani, che è la moglie di Lorenzo Cherubini Jovanotti, sta usando in maniera molto interessante Periscope. Beh, lei intanto fotografa, quindi già utilizzava le immagini in maniera molto tecnicamente molto brava, ma il punto è che questo dimostra che sì, giusto discutere diritto d'autore, tutto quello che si vuole, ma è una forma anche di marketing, regalare a chi c'è stato a un altro concerto, a chi è stato presente, il concerto di, che ne so, Firenze. Non è che la gente non ci va più perché se ne vedono dei pezzettini anche su Periscope. Anzi, magari ti viene voglia ti viene ancora più voglia di tornare. Te l'ho detto che io ho già preso quello per il palazzetto di novembre, pur guardando, non so adesso dove, in questi giorni. Sì, anche a me quando appare, anzi, rivivo magari un po' di emozione. Questo dovrebbe insegnarci un sacco di cose su come la rete, anche quando dai qualcosa che ma dici è gratis. Sì, è gratis in quel momento, però magari è una forma di, come dire, di diffusione di un bene che poi vuoi vedere da vicino, andare allo stadio, va bene. Io l'altra sera Giulio Base, per esempio, Bravo Giulio. Cos'è Giulio Base? È una cosa incredibile in otto lingue. Certo, poi lui ha il vantaggio di essere bravo con la televisione, in più con le lingue, quindi vabbè. Io l'altra sera ero sul divano, tranquillina, sì, nel buio della mia camminavi casetta. Per via Giulia. No, un'altra cosa, un'altra amica, oltre all'amico Giulio Base, la mia carissima amica Chiara Di Giambattista, che poi gli ascoltatori del Sabato di Villaggio conoscono, sì, perché lei va a molti concerti, quindi ci siamo collegati spesso con lei, perché lei appunto segue tanti concerti dal vivo, li sa consigliare molto bene. Era a Taormina al concerto di Spandau Ballet in prima fila. Io purtroppo a questo giro non sono riuscita ad andarci, soffrendo molto, perché mi ero diretta molto a Milano, però è stato bello essere lì nel buio della mia casetta a guardare la TV, e a un certo punto la notifica di Periscope. Segnati subito stream. La volevo citare io. La prossima vita stream. Te lo racconto. No, perché no, adesso, a parte gli scherzi, bisogna trovare un modo per aggregare, segnalare, chissà chi lo farà. Chissà, ma chi lo ci sa, proveremo. Chi lo sa, vabbè, vedremo questo subito stream. Periscope chissà comunque come sta mai esplodendo. Ma lo sai, ti dico una cosa. Mi dici un segreto? Alla fine? Sì. Non so se lo posso dire. Ma sai che si inizia a vedere da fisso? Sì. Parlane con Pagliarini, perché lì c'è qualcosa, non si capisce, però si inizia a vedere da fisso, cioè dal computer, dal PC. Ma non solo, io mi chiedo, ma secondo te, ti lascio con questo interrogativo, perché è quasi però finito ce il tempo a nostra una, disposizione. Puntata, sì, prossimo, abbiamo ancora una puntata. Ma è destinato a rimanere sempre così, che dopo 24 ore spariscono i Periscope? Perché è un po' come l'amore che finisce presto. Però te lo puoi scaricare sul tuo tablet. Certo, e iniziano a condividerlo dopo sugli altri social network. Che è molto a me Periscope piace perché c'è molto mistero, paura attorno a questo. Tra l'altro, non è neanche l'unica app di questo tipo, come Pagliarini ti avrà spiegato. C'è Mercat, tante altre. Ma però, che meraviglia questo sabato, la penultima puntata. Tu cosa cosa fai questo sabato sera? Non lo so, sai che sono aperta a tutte le possibilità. Adesso scrivete, vediamo. Scrivete Marta Cagnola, di Bellasio, hashtag RadioTube. Ancora per una puntata insieme sabato prossimo. Quindi vi diamo appuntamento al prossimo sabato. Ringraziamo Cristian Goldoni in redazione, Angelo Custode praticamente. Soprattutto mio. E Roberta Frisani in regia. Grazie. Che è stata così paziente. Al prossimo Ciao. Sabato.